potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io notturno, con la bella sotto braccia a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io notturno, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno per vedere se la gente poi piange davvero. Me ne sa che poi scopriamo che andiamo ai funerali e la gente non piange, specialmente per questa classe politica che c'avevamo in Italia. Non credo che la gente si commuove, dato che questa settimana c'è stata una retata di delinquenti che ci hanno governato per 20 anni. Uno di questi è stato ministro degli interni e durante i fatti di Genova, collegato, no? Organizzava la latitanza ai 'ndranghatisti, ai mafiosi, e insomma era uno di quelli che aveva detto pure che insomma Marco Biagi era un rompipalle, gli aveva levata la scorta, insomma uno che aveva una grande sensibilità sociale, anche se noi Marco Biagi, no, voglio dire, non è che ci avevamo molta simpatia, perché è l'autore della riforma del costo del lavoro, ma lui però già ne faceva così, uno che assieme a lui tutti insomma sono rinati, ricresciuti i vecchi Frigerio, Del Cregante, insomma questi ladroni che poi ci spiegano che bisogna partecipare alla vita democratica, che si scandalizzano quando le manifestazioni, no, sono abbastanza vivaci, ma no, ma devastano la città, questi non le mandiamo più a manifestare, non si protesta così, però loro possono rubare così come rubano, no? Poi se qualcuno si incazza e spacca la vetrina diventa un problema, che fanno tutta una storia per Gerry La Carogna, ha fatto un reato d'opinione, ha scritto su una maglietta che vuole libero un suo amico messo in galera perché in una mattata di stadio muore un poliziotto, è un reato d'opinione. Se allora quello che abbiamo fatto ieri noi, dice, noi, io stavo a Roma, però mi sento partecipe come se ci fossi stato presente, che chiediamo la libertà di Chiara, di Paolo, Nicolò e via dicendo, insomma i compagni che vengono repressi per la resistenza in Val di Susa, di tutti i compagni che noi sosteniamo, io chiedo da questi microfoni spesso che voglio libero Fagiolino, che è messo dentro per devastazione e saccheggio, e chi era il ministro degli interni? Uno che ha devastato e ha saccheggiato da 50 anni l'Italia, Scajola, delinquente a Regina Coeli, carcerata a Regina Coeli. Cioè io questo dico, allora davanti a questa cosa io non riesco più a capire perché pure tra di noi discutiamo di evitare e non si fanno le sceneggiate, scontri, gli scontri avvengono così, io rivendico il 12 tutto così come si è svolto e penso che la polizia ci mette un po' più del suo di quelle, diciamo, ordini che c'hanno, perché abbiamo visto la cattiveria che hanno messo i poliziotti per cercare di far più male possibile a chi partecipava a quella manifestazione. Allora, io questa cosa non mi sta più bene davanti a questa situazione così. Se Vincenzo vuole andare in onda, lo mettiamo subito in onda. Così. Allora, vabbè, muoio. Cioè, noi oggi ne vorremmo ragionare, ma non ragionare di questa mia introduzione così un po'. Vincenzo, c'è una telefonata. Vincenzo, pronto, Vincenzo? Pronto? Sei, te mettiamo in linea. Pronto? Sì, buondì. Ecco, ci sentiamo, vai. So che tu stai a Torino, se ci racconti un pochettino questa stupenda giornata. 30-40 mila persone in piazza a chiedere la libertà dei compagni che fanno la resistenza in quelle zone di Val di Susa. Sì, io in questo momento sono a Buzzoleno, perché qui poi con i compagni tra un po' facciamo una chiacchierata, ovviamente, come ci siamo visti ieri. Sì, i compagni, ricordiamo, siamo in terra con cui abbiamo fatto varie iniziative lì sotto Bibbia, Niccolò, Mattia e Claudio. Sono colpevoli di resistere, come tutti quanti noi ieri gridavamo, eccetera. Una manifestazione enorme, veramente popolare, insomma, piena di gente torinese, ma sono venuti un po' da tutte le parti d'Italia, voglio dire, sia da Roma, che è stata la delegazione più numerosa con tre bus e varie macchine, ma anche dall'Umbria, ma anche da Milano, la Lombardia, ma anche dal Veneto, insomma, c'era veramente una realtà composita, ma soprattutto c'erano tanti torinesi, oltre che i valsusini, ovviamente, di ogni ordine e grado, e questa è l'importanza. Uno schieramento di forze dell'ordine fa paura, 1500, ma se le dividevi in maniera provocatoria, insomma, in vari punti della città, oggi i giornali qui del luogo criticano questo enorme dispositivo, lo criticano perché è andato tutto bene, voglio dire, eccetera, perché c'è la responsabilità di chi ha portato a casa questa iniziativa, l'aveva già detto, noi vogliamo fare un'iniziativa importante, perché è assurdo che voi date il reato del terrorismo a coloro i quali hanno questo reato che gli imputano, di aver messo sabotato un compressore. Ovviamente, se io saboto un compressore, mi danno il reato da terrorismo, capisci bene, no? L'esaltazione ormai dei magistrati torinesi dove è arrivata, insomma, sono loro fuori dalla Costituzione ormai. Tieni conto che Perino, dal palco di Piazza Castello, dove abbiamo terminato, una Piazza Castello enorme, paragonabile con la nostra Piazza del Popolo, completamente piena, quindi come fanno a dire la polizia 5.000 persone? È proprio ridicolo, insomma, da questo punto di vista. Veramente, io ho sparato 50, ma se non sono 50, sono 40.000 veri. Insomma, i giornali ne parlano di 30.000, e poi è un po' sorpresi, perché dice non c'erano solo TAV, c'erano comunisti, autonomi, c'erano i NOMOS, c'era la gente, insomma, erano meravigliati, insomma. Sì, molto, molto meravigliati, fanno finta di sorprendersi, ovviamente devono tener conto, perché ti dicevo prima che Perino, il portavoce dei valligiani, insomma, ha avuto in maniera da dire quelle cose che pensavamo tutti, ma se costoro sono imputati di terrorismo, siamo tutti terroristi. Infatti la piazza ha gridato siamo tutti terroristi, insomma, perché ovviamente se queste sono le imputazioni, se questo è il rilancio costante che avviene su ogni azione dei notab di fronte alla protervia dello Stato che vuole fare a tutti i costi quest'opera un'utile e dannosa, allora è ovvio che avviene di tutto questo. Ma soprattutto io credo che sono stati sia i giornali sia i partiti molto incazzati con questa manifestazione, perché è l'unica vera manifestazione che precede le elezioni. Adesso questa compagine, questa manifestazione non ha niente a che fare con le elezioni, però interviene in maniera prepotente, perché nessuno, neanche Grillo, è incapace a Torino di mettere in piedi questo numero, questa importanza di storie. E qui le elezioni sono dirimenti, perché non ci sono solamente le elezioni europee, qui c'è le elezioni regionali. Oltre alle elezioni regionali, in Valsusa c'è le elezioni di tutti i comuni della Valsusa, ed è una cosa estremamente decisiva quello che avviene qui in Valsusa, perché sono state presentate liste popolari notabili dappertutto, dal capoluogo Susa fino a qui a Bussolino, a Chiomonte, insomma, eccetera. È una bella partita, e tieni conto, Ettore, tenete conto di questa storia, guarda la storia quanto è infame. A fronte di una lista notabile completamente come dire autogestita e che non ha concorrenti, come dire, no, c'è un'unica lista SITAB, quindi la destra ha rinunciato a presentare le proprie liste, c'è una lista, un'unica lista SITAB, e guarda caso che nelle liste SITAB i capolista sono tutti del PD. È però è successo pure un fatto, guarda, è carino, perché c'è stato Chiamparini che ha pagato 2000 euro per fare un'iniziativa in un locale. I soldi che ha pagato sono stati dati in difesa dell'assistenza legale dei compagni arrestati, e gli è roduto il culo a Chiamparini, ha detto: ma questo è un metodo mafioso. Sì, lui parla di mafia mentre i suoi compari stanno in galera a Regina Coeli o nascosti in Libano, perché sono mafiosi veri. Tieni conto che su questo criterio della solidarietà, qui oggi a Bussolino si apre un'altra di quelle iniziative di sostegno, i cui fondi vanno direttamente a sostegno della campagna per la liberazione di questi quattro giovani, cioè la Critical Wine, che dura da ieri fino tra l'altro ieri fino ad oggi, e poi l'Ampi pure, che sta raccogliendo soldi. Quindi è veramente una storia popolare da questo punto di vista. Ti dicevo, sulle elezioni, guarda caso, qui sono messi tutti sotto accusa i partiti SITAB. C'è questa ulteriore contraddizione, tu hai parlato di Chiamparino è il candidato ovviamente vincente alle regionali, e però nel pacchetto di Chiamparino, in quello che chiamano il listino ovviamente eccetera, c'è tutto SEL. E Sel fa finta di essere notato, poi partecipa ovviamente alle elezioni là dentro, e sta dentro il pacchetto di Chiamparino, che è un pacchetto SITAB. Le vogliamo chiamare contraddizioni? Chiamiamole opportunismi, chiamiamoli come dire volta cabana, chiamiamoli come ci pare, ma insomma queste sono le storie. Vi dico infine, ovviamente lo sapete, che dentro il listino invece per le europee, nella lista Tsipras, ci sono ben tre candidati notabili, ognuno si porta appresso le proprie contraddizioni, e però questa è la realtà. Se dovesse passare il quorum alla lista Tsipras, sicuramente uno di questi tre notabili verrebbe eletto nella circoscrizione occidentale. Ma torniamo ancora una volta invece alla manifestazione, che è decisamente importante e che poi ne annuncia altrettante, quindi siamo alla vigilia. E annuncia già una domani pomeriggio per Roma, ci sarà il movimento di lotta per la casa. Certo, e lì che anche lì non è che la partecipazione sarà scarsa, anche se fatta di lunedì, è un modo per riprendersi il diritto anche di manifestare senza essere tutte le volte aggrediti o linciati per dire che siamo dei devastatori. E lì porteremo ancora una volta la richiesta di liberazione di questi compagni. Ti ricordo che domani è anche l'anniversario di Giorgiana Masi, e quindi porteremo in piazza anche questo simbolo di Giorgiana vive nelle nostre lotte, insomma, eccetera. Ma soprattutto Roma sarà anche protagonista di questa battaglia per la liberazione di questi compagni, perché il giorno 15, giovedì 15, in Cassazione ci sarà l'opposizione ovviamente al mandato di cattura per reato di terrorismo, e quindi bisognerà, e già stavamo con i compagni di Roma decidendo di fare un picchetto ovviamente sotto la Cassazione, che la radio poi illustrerà, chiamerà, no? E saprà dire in quale ora dovrà svolgersi, eccetera. Tieni conto che il processo, questa manifestazione è stata fatta perché il processo sta per avviarsi. Il processo si avvia il 22 a Torino, 22 maggio, e che quindi sarà da seguire costantemente, da monitorare, da chiamare ovviamente all'attenzione un po' tutti quanti. Tieni sempre conto che Torino è diventata ormai la patria di tutto quello che avviene sullo scontro tra, come come dire, l'opposizione sociale e le realtà della magistratura, del potere esecutivo, insomma, eccetera, perché il 16 di giugno davanti al GUP ci sarà anche due nostri compagni, Piero Rossi e Mattias, che furono arrestati il 19 luglio dell'anno scorso mentre stavamo facendo la solita passeggiata da Chiomonte verso il cantiere. Quindi c'è una sequenza che ci vede ovviamente come una staffetta Roma-Torino dentro questa storia, che dobbiamo chiaramente sollecitare a tutti quanti e all'attenzione e alla partecipazione. Chiudo dicendo che appunto gli appuntamenti ce ne sono in abbondanza. Ieri è stato ricordato che alla fine della prossima settimana che entra, quello a Roma al 17, ci sarà sta manifestazione nazionale di tutti e di più sul titolo del no all'austerity, no alla precarietà e no alla devastazione ambientale per la libertà di tutti e tutti, e che delegazioni dalla Valle e delegazioni dal Piemonte saranno giù a Roma e parleranno ancora una volta dal palco, eccetera. E poi ci si è dati tutti quanti ovviamente appuntamento a questa giornata dell'11 luglio, dove i governi europei vorranno indicare un vertice sulla disoccupazione giovanile, e qui è veramente risibile, no? Loro che la provocano la disoccupazione giovanile poi dovrebbero avere i fondi per poterla risolvere. Non è ancora chiaro se sarà quella la data, ma insomma si sta lavorando perché diventi quella la data, tant'è che il 31 maggio qui a Torino ci sarà un'assemblea a carattere nazionale per indicare appunto poi le tappe, semmai venga confermata tutto questo. Finisco per dirti che la cosa più simpatica è che il 14, mercoledì, che è la data dell'arresto dei compagni Chiara, Nicolò, Mattia e Claudio, in Clarea qui a Chiomonte verrà fatta un'iniziativa molto ironica, cioè verrà fatto il funerale al compressore che è andato a fuoco. Simpatica, no? Sì, beh, un funerale con tutti gli onori, Vincenzo. Un funerale con tutti gli onori. Buona giornata. Ciao, grazie Vincenzo. No, io volevo dire una cosa, Ettore, insomma, a proposito di quello che dicevi tu e che adesso riprendeva Vincenzo. Intanto ci abbiamo due scadenze importanti: questa di lunedì 12 a Roma, che è un'iniziativa non solo contro, diciamo, per rivendicare il diritto alla casa, ma un'iniziativa anche contro la precarietà e contro il Jobs Act. È quella del 17, cioè di sabato 17, che ha un livello nazionale, dove vengono ancora una volta, diciamo, ribadite i bisogni delle masse popolari, dei lavoratori, dei cittadini, i bisogni sostanziali che vanno appunto dalla difesa dei beni comuni, dalla difesa del territorio, contro la precarietà, per un reddito per tutti. Quindi questi appuntamenti, e qui mi rifaccio ad una questione che diceva prima Valentina ha dedicato la canzone del maggio francese, la bellissima canzone di De André, a tutti coloro che lottano in ogni parte del mondo, in ogni parte d'Europa. Io, Ettore, se mi consenti, la vorrei dedicare pure a tutti coloro che ancora sono seduti, perché tutti, come dice la canzone, tutti siamo coinvolti. E allora, coloro che sono seduti, questa canzone va dedicata a loro, perché è il momento che si alzino e, prendendo spunto proprio dagli appuntamenti del 12 e 17, si facciano vedere in piazza, facciano massa critica con coloro che già ci stanno da tempo e alzino la voce contro questo stato di cose che, mentre qui si approssimano le elezioni europee, che sicuramente vedranno molti elettori europei disertare le urne, e mentre qui in Italia si fa il conto di quanti seggi o meno prenderanno le cosiddette forze anti-euro, qui dilaga la corruzione, lo ricordava Ettore in introduzione, dilaga la corruzione vecchia e nuova. Ettore, tu dicevi, lo diceva anche Valentina riprendendo spunto dalla rassegna stampa, dice qui riemergono vecchie figure, queste vecchie figure si legano a nuove figure, qui ci si alza la mattina, si accende la radio, si compra un giornale e si apprende che l'ex ministro degli interni Scajola, ex ministro degli interni, è indagato per connivenze con l'Andrangheta, con la Copperfield pure. È stato preso segreti. Presidente pure dei servizi segreti, è connivente, è indagato per connivenza con la mafia. Si dice, questo dicono i magistrati, che esisteva ed esiste una struttura permanente atta a far sì che i boss della malavita e i loro compari politici possano essere messi in condizioni di estradare da questo paese e fare delle belle vacanze con tanto di certificazione da parte di stati compiacenti e, diciamo, non rimetterci nemmeno un pelo della testa. Ora questo qui, siamo di fronte a questo stato di cose, cioè riemerge con l'Expo, che doveva essere la vetrina di questo paese, antiche e nuove corruzioni. Vengono indagati per intrecci, per il malaffare tra sanità, politici, ASL e chi più ne ha più ne metta intorno a queste questioni. Ora qui la questione è questa: ogni volta ci dicono che la situazione è sotto controllo, vogliono rassicurare i cittadini, in questo caso vogliono rassicurare gli elettori che andranno al voto prossimamente, dicendo che tutto va bene, madama la marchesa, che se ci sono fatti di corruzione comunque si sta intervenendo, ma nel mentre queste rassicurazioni lasciano il tempo che trovano, perché il paese continua a essere un paese che langue, diciamo, nella devastazione di tipo economico. Cioè qui non c'è solo la corruzione, qui continua a essere una produzione industriale che langue, la disoccupazione aumenta e non c'è una prospettiva per 2015-2016 che lasci intravedere delle grosse novità in termini di occupazione. C'è solo una cosa che rassicura: lo spread, il PIL. Ma diceva Valentina, riprendendo alcune questioni sempre da rassegna stampa, qui si capisce come lo spread e il PIL vengono utilizzati in maniera mediaticamente, in maniera infame, dai mercati, perché per dire che comunque le cose possono andare meglio, vanno bene, ma non si usano, non si prendono in considerazione i parametri della vita reale della gente. Ora tutto questo nel mentre si preparano le elezioni in Europa e la campagna mediatica. Oggi abbiamo qui presente in studio alcuni compagni, la compagna Lucia è una compagna spagnola che vive, studi qui a Roma, è quella che ci darà una mano anche a capire un po' meglio cosa avviene al di là dei nostri confini, perché ripeto, mentre si preparano le elezioni europee e si sa per certo che gran parte dell'elettorato europeo diserterà alle urne, mentre, diciamo, si cerca di fare una campagna di rassicurazione, noi vediamo che ai confini dell'Europa, parlo dell'Ucraina, la situazione è da incendio, siamo al limite del disastro umanitario, lì non arrivano i medicinali, c'è una situazione che ormai sta al limite della guerra civile, i generi alimentari scarseggiano, c'è una situazione criticissima. Come è critica, per esempio, la compagna Lucia ci dirà, noi la interrogheremo anche in merito per sapere un pochino qual è la situazione spagnola, perché per esempio Lucia ci viene detto qui, la gran cassa mediatica non suona solo per rassicurare gli italiani, vengono fatti dei confronti, ci si dice che in Spagna c'è una ripresa, ci sono investimenti esteri che arrivano, ma noi vorremmo sapere invece un'altra cosa. Per esempio, vorremmo sapere qual è la reale condizione di vita dei lavoratori spagnoli, delle masse popolari spagnole, quanto si guadagna, arrivano sti investimenti, ma chi ci guadagna di questi investimenti? I salari spagnoli oggi, un lavoratore di una fabbrica, un lavoratore di un ufficio, un impiegato, un operaio, una donna, un uomo che svolgono un determinato lavoro, che salario hanno? Quali sono le loro condizioni di vita? Perché viene suonata, anche questa fa parte della gran cassa mediatica, sì. Si fanno i paragoni tra vari stati per diciamo mettere quasi in concorrenza, o per rassicurare o per stimolare, ma si dicono delle autentiche menzogne. Bene, diamo subito la parola a Lucia. ci spieghi un attimino, perché poi non è stonato, dice stiamo parlando l'Italia, ruberie, perché poi descrivendo sta cosa penso che parliamo, se parlassimo spagnolo potremmo dire le stesse cose, stesse quasi cose, della Spagna. Sì, sì, perché la situazione è abbastanza simile rispetto a quella italiana, nel senso che si parla di ripresa, i numeri delle altre cifre, della borsa, tutto quanto, però quello non c'ha proprio niente a che vedere con la vita delle persone di tutti i giorni. Cioè, ai funzionari lì abbassano sempre di più lo stipendio, ormai ai funzionari le hanno tolto anche la tredicesima, hanno ridotto anche le giornate di ferie, insomma tutta una serie di questioni di repressione al mondo del lavoro e anche a livello proprio di strada, di piazza, che dopo piano piano vi racconterò un po' per farvi capire la situazione. Però insomma la situazione è più o meno come quella qua, cioè la devastazione è sempre più oppressiva verso i corpi, verso la natura, verso le politiche giovanili, verso l'università, verso tutto il settore pubblico, insomma vi dice. Ecco, dentro sta cosa c'è la reazione di massa, pure qui c'è, sì. È più magari debole, non lo so, sì. Ma in Spagna sì. C'è il movimento degli indignati, sì. Che più di una volta ha fatto parlare, esatto, di sé, sì. L'ultima iniziativa che sono venute a piedi da tutte le parti della Spagna e hanno volevo... occupato Madrid per 3-4 giorni, sì. Anche con dure repressioni. Sì, sono stati violenti arresti, anche arresti anche settimane dopo, messi più di un mese dopo, sono stati arresti proprio arbitrari, senza proprio senso. Insomma, io volevo partire proprio da quello, visto che prima si parlava delle dati delle grandi manifestazioni, appunto volevo fare il contributo, parlare un attimo di quello che è avvenuto il 22 marzo con le chiamate Marce della Dignità. Si chiamano così perché appunto va da diverse parti della Spagna, visto che Madrid è proprio al centro della penisola, si fanno delle marce che vengono da sud, da nord, da est, da ovest, da tutto, e vengono piano piano raggiungendo sempre più gente attraverso i paesini, le città, e arrivano a Madrid i giorni prima, si preparano, chi dorme in tenda, chi dorme si è, insomma così, si organizzano, e il 22 marzo hanno fatto questa gran manifestazione verso il centro, cercando di circondare il congresso. Cosa c'è? Che adesso però in Spagna, soprattutto a Madrid, le marce, le manifestazioni non si possono fare più circondando i palazzi, perché hanno fatto questa nuova legge, cioè, ordinanze di, la chiamano sicurezza cittadina, in cui non è altro che tutta una serie di repressioni stradali ai movimenti assembleari per evitare insomma gli scontri, evitare della stazione che loro chiamano, insomma per criminalizzare sempre di più ai movimenti di massa. Quindi non si può più arrivare a meno di 200 metri dei palazzi del potere, nel potere. Però comunque quello non è un problema, insomma il percorso si è fatto uguale, è stata una manifestazione molto numerosa, si parla anche di 2 milioni di persone, questo comunque ovviamente i media lo silenziano, a loro li basta la copertina con le cariche, la polizia, questi e gli avversari estremisti dell'ETA vengono qua a mettere le bombe dappertutto, con quello rimangono contente, invece non dicono che sono stati 2 milioni di persone in piazza da tutta la Spagna, gente, militanti, non militanti, compagni, non compagni, insomma è scesa cittadini anche che non hanno un percorso di lotta alle spalle, perché ormai la gente si è rotto, cioè tutto, ormai non c'è proprio niente. E comunque anche se l'aria alla fine è stata violenta, quello che si tende a fare adesso, il movimento sarà abbastanza chiaro, è l'aria pacifica del non violento, che è quello che ha fatto sì che dal 2011 questo movimento assembleario vivesse ancora, no? E quello, lo striscione principale la scritta c'era: no al pago del debito, niente più tagli, via i governi dalla troica, pane, lavoro e cassa per tutte e tutti. Insomma, sono parole d'ordine che più o meno si condividono anche qua, no? Anche se le stesse parole d'ordine sono nei nostri striscioni, insomma, esatto. Da tempo. C'è la differenza che lì in Spagna, da tutti i paesini, da tutte le città, sono arrivati a Madrid. Noi portiamo la gente, ma non è la massa che si è mossa in Spagna, no. Perché probabilmente se anche in Italia si muovesse in questo modo, io penso che a voglia a elezioni europee, sì. Il popolo già l'ha smentito di fatto, infatti. Che non vuole più questo modello di sviluppo, questo modello di società. Sì, infatti dentro i movimenti non è che si, cioè questa cosa del 25 delle elezioni europee non se ne parla tanto, perché ormai, cioè, è una cosa secondaria, diciamo, quello che si percepisce anche tra i movimenti, sì, cioè, e in Spagna l'assenteismo, Lucia, sarà alto, sì, in base qua, grosso modo, così, tanto per fare un numero, perché qui in Italia per il momento sfioriamo tra schede bianche, astensione, indecisi, stiamo oltre al 50%. Sì, pure da noi, su più oltre il 50, se si mette insieme anche le schede bianche, sì, ha voglia. Sì, sì. Poi c'è da dire anche in quella data, il 22 marzo, c'era una colonna dei lavoratori in lotta molto, molto forte, molto compatta, che ha funzionato assai bene. Allora è stata formata da 20 lavoratori pubblici e privati, tutti insieme, a cui si sono aggiunti anche i sindacati di base di studenti. Tra cui il COBAS, la CGT, la Solidarietà Obrera, la CSC, la Sindicale di Aragon, il Sindacato Andaluso dei Lavoratori, eccetera, eccetera. Loro con lo striscione scritto "dalla base del territorio uniti contro il capitale", no? Quindi per dire che comunque anche lì c'è una grossa lotta dei lavoratori della logistica avviata. E poi volevo anche accennare un attimo l'ultima data, un'altra manifestazione nazionale che è avvenuta il 1 maggio, più recentemente, un po' per contrastare queste giornate di mobilitazione nazionale. Quest'anno invece quella manifestazione centrale non si è fatta a Madrid, si è fatta a Bilbao, e si è scelto di farla a Bilbao perché comunque anche il territorio di Madrid è un attimo sfinito, cioè bisognava prendere d'aria, e secondo me è stata una bellissima idea spostarla ai Paesi Baschi. Questa convocata ai sindacati confederali con 100.000 persone, con la scritta "senza lavoro di qualità non c'è ripresa". Ecco, comunque questa manifestazione è finita con diverse filiali bancarie sanzionate, attacchi con pittura, vetrine spaccate, eccetera eccetera, però in generale la giornata si è svolta abbastanza pacifica. 70 città della Spagna sono scese in piazza, Barcellona con 75.000 manifestanti, in cui Barcellona poi ha fatto un'altra manifestazione alternativa convocata dai sindacati di base e dai sindacati di studenti dei paesi catalani, con lo striscione scritto "contro la miseria dell'Unione Europea siamo classe operaia", no? Questo ci tenevo anche a dirlo, perché comunque adesso si parla che non c'è più un soggetto operaio in lotta, non c'è più questa presa di coscienza, invece secondo me, a mio avviso, in Spagna non è vero, cioè si sta mettendo insieme studenti, lavoratori tutti insieme, si sta crescendo anche il movimento universitario. Non c'è il soggetto politico, perché tutti rivendicano, pure qui, esatto, nelle nostre telefonate, bisogna fare il partito, il soggetto politico, immagina il partito. In Italia c'è stato un grande partito comunista che ha prodotto D'Alema, Veltroni, adesso Renzi, Bersani, questo è stato la prodotta. Dopodiché c'è stato un tentativo di farlo rinascere, il soggetto politico di classe comunista, e che ha prodotto Bertinotti, Vendola, che ha prodotto. Perciò non serve costituire, questi sono i movimenti. Esatto. Prima creare l'unità dal basso, unire i lavoratori della logistica con gli impiegati statali, unire i lavoratori metalmeccanici con quei chimici, con i disoccupati, e muoversi tutti insieme, sì, uniti contro questo sistema. Niente, come diceva lo slogan, che lo striscione alternativo che facevano a Barcellona, uniti come classe operaia contro il sistema della troica. E questo è lo slogan che ci deve unificare, no, sì, un soggetto politico. Sì. Sì, perché comunque adesso io parlo soprattutto di Madrid, che è quella realtà che conosco più da vicino, però in generale adesso in Spagna il movimento nato dal 2011, quel movimento assembleario, continua e ha avuto un'evoluzione, una maturazione, ci sono delle città dove è evoluto un modo, altre città dove si è allargato ancora di più, però insomma si sente che c'è una sorta di un momento di mutazione, no? Di progettazione, di proposte, di alternatività, in cui comunque il governo Rajoy opprime sempre di più, le leggi contro la repressione anche da parte delle forze dell'ordine sono sempre più dure, però comunque quello non toglie forza al movimento, anzi. E questo metodo assembleario, che è nato da 3 anni fa, è poggiato sempre da più gente che non è militante, e scende sempre più gente in piazza, città dove sono 100.000 abitanti, 200.000 abitanti, si hanno la loro assemblea di quartiere settimanale dove si organizzano anche iniziative culturali, politiche, si parla, si contrasta, si parla delle necessità, delle problematiche che hanno bisogno, cioè, che servono per il quartiere in sé, dal quartiere che si parte. A Madrid esisteranno 20 di assemblee di quartiere, che poi ognuna è organizzata in diverse commissioni e gruppi di lavoro, che possono essere puntuali per fare una ricerca, un'iniziativa, un percorso puntuale, oppure per ricavare i soldi per pagare le casse di resistenza, delle multe, perché da noi funziona molto con le multe, no? Cioè, la repressione poliziale funziona molto più spesso con le multe che con gli arresti, e le casse di resistenza non funzionano molto molto bene anche nei piccole città. Cioè, magari un compagno soffre una multa di 3.000 euro per una convocazione non autorizzata, 3 giorni dopo ci tira fuori perché ha fatto 2 pranzi in piazza, un'iniziativa, una rassegna cinematografica, 2 cazzate in più, no? Senti Lucia, la Spagna è un territorio di 500.000 chilometri quadrati circa, con una popolazione credo intorno ai 45 milioni di abitanti. È divisa, diciamo, il territorio anche per fasce diverse, zone industriali, le zone agricole, eccetera. Noi vorremmo sapere una cosa, cioè vorremmo che tu chiarissi un fatto. Quali sono le condizioni di vita nelle varie, diciamo, regioni spagnole? In questo senso, per esempio, condizione del settore agroalimentare è una condizione che si trova ancora in difficoltà o c'è una ripresa? Il settore industriale ha aumentato la produzione o l'ha diminuita? Questi investimenti che provengono dall'estero sono investimenti che tendono a far aumentare l'occupazione, a far aumentare i salari, o c'è una concentrazione nel profitto, diciamo, delle ricchezze che si ricavano? A Spagna non dimentichiamo che mi pare che viaggia, per quanto riguarda disoccupazione in termini assoluti, vicino al 25%, o sbaglio, dei disoccupati. Sì, sì, sono 6 milioni ormai. Quindi se consideriamo che in Italia è altissima e stiamo vicino al 13%, immaginiamoci la Spagna. Lo sai perché dico questo? Perché qui questa politica infame che viene posta dagli apparati europei, dalla Troica, tende anche a creare una divisione tra i vari stati. Noi per lungo tempo ci hanno messo in competizione, sulle televisioni italiane appariva sempre il raffronto, non so, per quanto riguardava lo spread, non solo tra i bot italiani e i bund tedeschi, appariva sempre pure con i bonus spagnoli, cioè la Spagna sta peggio di noi, sta migliorando, attenti. Si crea una competizione artificiosa, delinquenziale, che tende poi, dicevo prima, anche a mistificare, diciamo, la reale informazione. Si è accreditata della Spagna, per esempio, le banche, quale concentrazione di immobili hanno dopo che c'è stata, diciamo, la scoppiata la bolla immobiliare? Lì parecchie persone si sono dovute, diciamo, non potendo pagare più i mutui, mettere all'asta, diciamo, le case di cui si sono appropriate largamente le banche. Sta situazione, c'è un miglioramento o è statica o volge al peggio? No, non c'è nessun miglioramento, come dicevi tu. Comunque questa iniezione di capitale estero non stanno rispecchiando sul miglioramento della vita delle persone, dei cittadini, no? Anzi, cioè, il settore agroalimentare e quello industriale non si sta riprendendo affatto. No, la gente perde sempre di più il lavoro, e poi i contratti, fanno le riforme lavorali in cui per avere un contratto indefinito è una roba, cioè, impossibile, sono sempre più precari, gli stipendi si abbassano sempre di più, i prezzi comunque si alzano, i braccianti agricoli, comunque da noi c'è una gran forza lavoro marocchina, cioè, abbassissimo, una ripresa nel mondo reale non c'è. diciamo, la forza, diciamo, che viene dai paesi del Nord Africa è a bassissimo costo, super sfruttata. Senti, come si funziona? Noi sappiamo, no, che in Spagna la crisi comincia proprio con la bolla immobiliare, scoppia questa situazione e provoca migliaia, centinaia di migliaia di sfratti, di gente che rimane senza casa. Queste realtà come si stanno muovendo, come si organizzano, come fronteggiano il problema dell'alloggio? Perché noi in Italia abbiamo dei movimenti di diritto all'abitare, ma però non è che c'è anche gente che ha perso la casa perché gli è stata pignorata, ma c'è gente che non è riuscita mai ad averla e non la può neanche prendere in affitto perché i prezzi sono assolutamente inavvicinabili. Sì, infatti questo era un punto. E c'è questo movimento in Spagna, come funziona? C'è sta rete, c'è un comitato, spiegaci. A voglia, se esiste da... Soprattutto nato dal 15M, dal 2011, si sono organizzati partendo dal basso, con una situazione spontanea, il movimento per antisfratti, no? Quello che da noi adesso si vede un po' di più anche a Roma, no? Gli stop sfratti, gli adesivi, le banderine, quello da noi c'è da 3-4 anni fa, anche 2010 già si iniziavano a organizzare un pochino, Stop Desahucio si chiama, e... Infatti sì, quello era un punto che volevo trattare qua con voi oggi, perché è un movimento che anche qua in Italia, a Roma, è abbastanza, insomma, è uno dei pilastri, no, dei movimenti sociali, adesso il movimento per la casa, perché giustamente come diceva Ettore, sempre più gente perde la casa, perde il lavoro e quindi non può pagare l'affitto e quindi viene sfruttato. Poi adesso col decreto Lupe sarà ancora peggio, perché subito appena rimani senza lavoro, non puoi pagare l'affitto, rimani senza affitto al padrone, diventi occupante, quindi porterà una serie di tutti i problemi che insomma, domani la manifestazione per il movimento per la casa è un punto di ritrovo, e prendendo spunto dalla manifestazione di domani volevo parlare appunto del movimento per la casa in Spagna. Dal 2011 si è formato questa piattaforma di, come si direbbe, Afectados por la Hipoteca, cioè la PA, che è una piattaforma non estremamente antagonista, nel senso che ha un atteggiamento più anche di richiesta verso lo Stato, dialoga con l'istituzione. Esatto, e in alcune città appartiene anche a Izquierda Unida, che è un partito di sinistra, però insomma si muove anche dal basso, spinge nelle manifestazioni, nelle occupazioni, fanno anche delle occupazioni sociali, nel senso che non sono solo a scopo culturale abitativo di studenti, ma si formano anche parte gente che appunto ha perso la casa, famiglie intere, gruppi di persone che si auto-organizzano e occupano. Però anche in risposta a quello si è creata anche un'assemblea di vivienda, che si chiama, la vivienda sarebbe abitazione qua in italiano, l'assemblea di vivienda, e Lucia, in ogni città abbiamo in diretta tua amica da spagnola, puoi parlare Andrés, con lei con lui Andrés, ¿me oyes? Pronto? Andrés. Hola. Ti sentiamo. Io sono Cristina. Ah, questa è Cristina, una ragazza una ragazza spagnola. Hola. Lei però non appartiene al movimento per la casa. Lei sta in tutta un'altra cosa. Vogliamo parlare con lei adesso? Sì, ormai. Vabbè, l'abbiamo chiamata. Allora, io, a parte il movimento per la casa, oggi volevo raccontare della Marea Bianca. Non so se qua l'avete sentito. La Marea Bianca sono tutta una mobilizzazione di dottori e medici che si sono mobilizzati a Madrid contro un piano del governo regionale per privatizzare la gestione degli ospedali. Cosa c'è in Spagna? La sanità e l'educazione dipendono dal governo regionale, non dipende dal governo centrale, quindi ogni regione fa come gli pare. Come a noi. esatto. E rubano tutti. Esatto, non è un caso che siamo cugini. E quindi a fine 2012, nell'inverno 2012, c'era il piano del consigliere di sanità della regione di Madrid di privatizzare la gestione degli ospedali. Lì tutto il settore pubblico degli ospedali, cioè dottori, specializzandi, medici, fisioterapisti, infermieri, tecnici, assistenti, tutti quelli che lavorano nel settore pubblico degli ospedali si sono mobilizzati, hanno fatto un anno e mezzo di percorso di lotta per fermare questa iniziativa del governo di privatizzare la gestione degli ospedali. Hanno iniziato subito con due mesi e mezzo di sciopero, hanno scioperato per due mesi e mezzo, diciamo che hanno coperto solo le guardie del fine settimana e dopodiché sono stati delle manifestazioni ogni mese, da lì si chiede il nome delle Marea, no? Marea Bianca, perché ognuno scendeva in piazza col grembiulino bianco, quindi si vedeva Madrid piena, bloccata da tutta questa marea bianca, chiedendo la paralizzazione dell'iniziativa del governo. Allora, Cristina, ¿me oyes? Sí. Que cuéntanos un poco cómo eran los momentos en las manifestaciones en Madrid, en la calle. Pues bueno, pues a raíz de que intentaron privatizar la sanidad, pues empezamos a hacer manifestaciones y bueno, pues había muchísima gente y bueno, pues hicimos canciones y salíamos a la calle, no sé. En los hospitales, qué aire se respiraba? O sea, ¿cuál era la situación? La gente, los propios enfermos, la gente que estaba dentro del hospital, ¿lo entendía, apoyaba la movilización? Lucia, scusa, tu periodicamente dovresti tradurre. Sí. Dime, Cristina. Pues, o sea, había muchísimo apoyo por parte de la gente, pero luego también se empezó a decir que nosotros salíamos a la calle y que nos manifestábamos por nuestros sueldos y, o sea, intentaron hacer ver esa perspectiva y entonces también había gente que empezó a creérselo y por eso también hicimos movilizaciones en las que decíamos que nosotros no nos movilizábamos por eso, sino por, o sea, que éramos médicos y pacientes y que nos movilizábamos por la sanidad, no por nuestros sueldos, que ya anteriormente, pues, o sea, yo justo había empezado a trabajar, pero anteriormente ya habían bajado sueldos, ya habían recortado presupuesto. Habla un poquito más alto. No estábamos movilizando por eso, sino por defender el modelo público. La sanidad pública, y eso, ¿no? Claro. Sí, eso hubo gente que empezó a pensar que no y ahí, o sea, también hubo muchísimo apoyo, pero hubo otro sector de la población que se empezó a creer que no, que estábamos haciendo eso por motivos políticos, por motivos económicos. ¿Y cómo se y mayoritariamente por quién estaba organizada la movilización? O sea, ¿había estudiantes, había residentes, había o también todo el cuerpo de médicos mayores empezó a salir a la calle? Pues fue todo el cuerpo de médicos. Además, pocas veces se ha conseguido que los médicos se movilicen y se consiguió. Y es que realmente estaban, o sea, los residentes sobre todo, pero sí, también, o sea, también médicos mayores. Dependiendo mucho de cada hospital, de cada servicio. Uh-huh. Había servicios que estaban los médicos adjuntos también, otros no. ¿Y cómo se paró? O sea, ¿cuál es la sentencia del tribunal que dijo? Scusate un attimo, scusa Cristina, scusa Lucia, traduci, perché se no si accavallano troppi noi, concetti. Noi che non ci siamo Cristina, capiti, ci devi almeno ogni tanto, perché noi lo spagnolo non lo capiamo. No, ma come noi, ma soprattutto per chi ci ascolta. Traduzco un poco lo che hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Tú quédate en línea. Vale. Sì, la compagna ci spiegava che dall'inizio si sono mobilizzati tutti, soprattutto da due principali ospedali che sarebbero stati quelli più dannati dal piano, e subito sono scesi in piazza tutto il corpo dei medici, grandi, piccoli, specializzandi, dall'università e anche infermieri. Questo è perché è una mobilizzazione come si dice, transclassista, no? Che coinvolge sia i dottori che intercategoriale, diciamo, agli studenti, agli assistenti tecnici degli ospedali, agli infermieri, fisioterapisti, psichiatri, cioè insomma tutti. E, è vero che l'albo dei medici non lo appoggia dall'inizio, però lascia lo spazio per fare le assemblee lì nello spazio loro, quindi si dichiarano in sciopero, quello facendo tante iniziative anche in piazza, dentro gli ospedali, per informare la gente, per, che ne so, facevano dei lavoratori in piazza per imparare a leggere le lastre, e dicevano facevano dei consigli di igiene, di cura, eccetera eccetera. E ecco, si dichiarano in sciopero, e comunque la società, c'era della gente che comunque anche non lo vedeva, non lo condivideva, perché pensava che loro stavano lottando per il loro interesse, per avere più soldi, però in realtà non era così, loro sono stati 2 mesi e mezzo. Noi abbiamo un problema grave nella sanità, c'è gente da noi in Italia, traducelo a lei pure, che non si cura perché paghiamo un ticket ed è troppo salato. Noi stiamo cercando di creare, se ci riusciamo, se ci fossero i medici spagnoli forse sì, di creare un'intramenia sociale, cioè una cura gratuita a chi non se lo può permettere, le lastre, le cose, via dicendo. In Spagna gli spagnoli, per curarsi, devono pagare il ticket, devono versare. Come fanno? I medici sono disponibili, per esempio, come iniziativa di contropotere proprio, di essere disponibili gratuitamente. Sí, Cristina, en España no se tiene que pagar nada, ¿verdad? Cuando tienes que hacer una consulta, no se paga un ticket, porque en Italia se paga un ticket solamente por haber hecho ya directamente la consulta, solamente por la visita ya tienes que pagar un ticket. No, aquí no. En España no, no funciona así, tú no debes pagar ningún ticket, no. Ancora no, vediamo dopo cosa riescono a fare. Va bene. E no, io le volevo chiedere l'ultima domanda: come si è fermato, no? Qual è stata la sentenza alla fine del tribunale per chiudere? Cristina, come fu la risposta del tribunale? O sea, qual fu la sentenza finale che paralizzò il piano del governo? Bueno, pues en un principio, pues con la lucha che hicimos, que se empezó desde que quisieron privatizzare gli ospedali. Lo hicimos pues saliendo, manifestándonos y viendo que eso no estaba siendo suficiente. Ya pues asociaciones como AFEN, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, lo llevó a los tribunales para denunciar desde la vía legal esa privatización. Y entonces al final en enero se consiguió paralizarlo definitivamente y fue, o sea, de esa manera como se consiguió. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, adiós. Niente, la compagna ci ha raccontato che alla fine, dopo un anno e mezzo di mobilitazione in cui una volta al mese si faceva questa manifestazione, l'hanno portato al Tribunale Superiore di Giustizia regionale, e il Tribunale è stato a fermare il piano del governo, dicendo che comunque anche argomentativamente non si sostiene, perché non esiste nessun report internazionale, nessun tipo di ricerca che si occupi della gestione ospedaliera in cui si dimostra che la gestione privata è più conveniente per la salute della società, cioè non è un argomento che non si sostiene, quindi anche a livello concettuale, a livello di ricerca, non c'è nessun argomento che possa appoggiare la privatizzazione privata. In poche parole, la difesa della sanità pubblica con queste iniziative è stata per il momento tutelata. E per il momento, sì, dopo vediamo. No, perché noi in Italia siamo messi molto molto molto molto peggio, perché in Italia pervade il sistema privato, magari convenzionato con lo Stato attraverso le famose tangenti che stavamo parlando all'inizio della trasmissione, che sono coinvolti tutti, e in più con l'aggravante che in Italia, per curarsi, per fare un'analisi del sangue, devi spendere centinaia di euro, e molta gente, non avendo più questa possibilità, neanche fa più le analisi di routine, quelli che sono necessarie magari a curare o a prevenire qualche malattia che è in atto, cioè noi siamo molto peggio. Speriamo che in Italia qualche medico si renda sensibile e prenda spunto pure da questa iniziativa della Marea Bianca nata in Spagna, anche qui si muovesse una marea bianca di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, affinché si affronti questo problema che sta diventando serio. La gente muore per mancanza di cure, perché non c'ha più i soldi per curarsi. Di cura e di prevenzione, cioè muore anche di. Cioè. È di prevenzione. Senti, Lucio, io voglio invece spostare un attimo il discorso su una tematica un po' più generale. Guarda, mi incuriosisce farti una domanda. Adesso, al di là delle tematiche specifiche intorno alle quali tu potresti, diciamo, discettare, potresti analizzare a lungo, pure per quanto riguarda ovviamente la situazione spagnola, io trovo che poi alla fine, anche quando abbiamo avuto contatti con compagni portoghesi, greci, eccetera, tutta una serie di bisogni, perlomeno nell'area dell'Europa mediterranea, sono analoghi. Cioè questo è il problema della disoccupazione, il problema del lavoro, il problema della casa, il problema di una ripresa industriale, il problema anche dei livelli di democrazia in questi paesi, i livelli di repressione quando si manifesta contro questo stato di cose. Ora la domanda che te pongo, e guarda, te confesso che è una domanda alla quale io ho difficoltà a rispondere, è questa qua. Cioè intanto in Spagna si avverte la necessità che ci sia un movimento che vada al di là delle frontiere, un movimento di classe, un movimento, diciamo, dei lavoratori, dei ceti popolari, che vada al di là delle frontiere? Perché io ho un'impressione, Lucia, che se noi rimaniamo in Italia, in Spagna, in Grecia, in Portogallo, in una chiusura di tipo autarchico, di tipo nazionale, noi contro sto molosso che ha la troica, contro queste diciamo misure che vengono presi dai potentati economici e finanziari, non è che la possiamo spuntare facilmente. Quindi in Spagna, al di là delle lotte, c'è questa consapevolezza, sta maturando, ha avuto un regresso, fa dei progressi? Noi qui in Italia ancora dal suo punto di vista non è che siamo messi tanto tanto tanto bene, ci abbiamo persino da registrare al nostro interno anche una messa a punto di tutti i movimenti, una ricerca di unità più generale che ci porti ad un progetto che sia in grado di fronteggiare sto stato di cose in Spagna. Com'è la situazione? Abbiamo adesso, Andres, quello che dovevo chiamare prima l'ho chiamato adesso, recupera il tema. Sì, però io lascio aperta sta questione. No, e comunque non è una domanda facile, e anch'io ho le mie contraddizioni nel rispondere, perché è molto delicata questa questione dell'apertura internazionale della lotta, soprattutto con i casi baschi e catalani, che da noi, insomma, è un contraddittorio. Sì, però dopo la vabbè, sentiamo Andrea. Sì. Questo Andrea è un compagno dell'assemblea, come parlavamo prima, del movimento, torniamo al movimento per la casa, ecco dove si era lasciato. E dicevo che dal 15M si era formata questa piattaforma antisfratti, però in risposta a quello che è più istituzionalista si è formato dal basso, sempre dai movimenti assembleari di quartiere, le assemblee della casa in ogni città, in ogni quartiere. Allora Andrés è dell'assemblea di Lavapiés. Lavapiés è un quartiere del centro di Madrid caratterizzato da tipo come quello che si potrebbe chiamare, come analogicamente un po' quello che era il Pigneto un po' di tempo fa, no? Che adesso più anche Centocelle, che adesso c'è tutto il processo di gentrificazione, mi si chiama adesso, no? In cui ci sono gli immigranti, però comunque va di moda, i prezzi si alzano, via dicendo. E insomma adesso Andrés ti racconterà un po' adesso come funziona la loro assemblea. Andrés, ¿me oyes? Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos aquí hablando un poco en general de cómo está la situación en España, ¿no? De que hemos hablado un poco de la marea blanca, de la perspectiva de las elecciones europeas, y ahora pues estamos hablando un poco de la cuestión de la casa. Cuéntanos tú un poco cómo están ahí las cosas en las ocupaciones. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay como un movimiento por la vivienda muy fuerte, con mucha legitimidad social y bueno, y con digamos, la liberación, la ocupación de bloques de edificios como la, vamos, lo más cañero de ahora mismo de esta lucha, ¿no? Y que está consiguiendo, bueno, pues que haya varios bloques de edificios ocupados en Madrid, en Cataluña, en Sevilla. ¿Y qué tipo de gente, para, o sea, quién ocupa y quién se queda viviendo? O sea, ¿qué tipo? Bueno, estas iniciativas, como que, bueno, la ocupación es algo que es una constante aquí, hay mucha ocupación, cada vez más y cada vez con mayor legitimidad, pero en el caso concreto de los bloques de obra social, como se les ha llamado, son, bueno, empieza la PAE en Cataluña a ocupar estos bloques, y aquí en Madrid pues son los grupos de vivienda de los barrios que están ligados a las asambleas populares de barrio. Vale, espera un momento que traduzco, ¿vale? De acuerdo. Sí, diceva che la tendenza generale comunque in crescendo, si occupa sempre di più, si fanno diversi tipi di occupazioni, ci sono le occupazioni in blocco, quello che si chiama il blocco sociale, che si occupano le palazzine intere, no? Per dare scopo abitativo a delle famiglie, organizzate comunque anche da gente dello stesso quartiere, non per forza sono i militanti del collettivo, col cappetto, che questo, la bandierina, le cose, prende, va la gente, la mette dentro, no, cioè, sono assemblee di quartiere che si auto-organizzano chiedendo, sì, aiuto all'assemblea che ha un percorso di 3-4 anni alle spalle, però comunque è una cosa abbastanza popolare. E poi ci sono anche delle occupazioni a scopo più socioculturale, quelle di più di compagni, quelle che si sono sempre. E sì, comunque l'ha detto un paio di volte, c'è questo movimento, questa tendenza all'occupazione sta avendo sempre di più legittimità sociale, cioè sempre più gente lo vede come una cosa assolutamente legittima, lo appoggia, appena si fanno iniziative in piazza si vede, e te chi siete, è occupato, che bello, che fa, cioè non c'è questo rifiuto sociale, non ti guardano più storto, no? Come magari 5-6 anni fa, adesso la gente lo vede, lo capisce e anzi lo appoggia pure, no? E invece io le volevo chiedere appunto com'è il rapporto con le forze dell'ordine, no? In questa situazione, quanto è tesa la repressione, no? Andrés, ¿cómo es la relación con las fuerzas del orden? O sea, ¿qué tipo, cómo se desarrolla la dinámica en la ocupación? ¿Qué tipo de tensión, qué tipo de represión se recibe? Bueno, es complicado ahora mismo. Vivienda, la lucha por la vivienda es uno de los objetivos más fuertes de la represión. Nos están golpeando bastante y, bueno, en el caso de la ocupación, pues depende de muchas circunstancias. Los procesos judiciales estamos intentando alargarlos. Se ocupan sobre todo pues edificios que son de bancos, de cajas, que tienen un mayor apoyo social, y también, bueno, pues algunos jueces sí que están, con todos los escándalos que ha habido a lo largo de estos años, el rescate a la banca y tal, pues bueno, pues están como tomándose unos tiempos que en otros casos o en otros momentos pues no se tomaban. Entonces por ahí estamos un poco también intentando alargar los procesos, entrar en procesos de negociación para alargar pues la vida de estos edificios. Okay. Normalmente, en cuanto dan la orden, la policía lo que hace es, sin ningún escrúpulo y con todo el aparato que tienen, expulsarnos. Hace un par de semanas pues se desalojó un edificio que se llamaba La Charca, que estaba en Carabanchel, un barrio de Madrid, y bueno, pues se dejó en la calle a varias familias, a gente joven. Bueno, se dio el caso incluso de que había algunos animales en la casa, que no dieron tiempo a sacarlos y que los policías amenazaban con matarlos. Bueno, cosas así, ¿no? Risas mientras desahucian, bromas, insultos a la gente. Bueno, es como y eso es como la cara, digamos, más directa. Luego vienen pues la... Gracias, espera un momento que vuelvo a traducir. Sí, eso te raccontaba, que comunque adesso en España con la polizia reprime uguale come qua, cioè c'è la violenza senza motivo proprio. Diceva, raccontava un caso di due settimane fa che hanno sgomberato un'occupazione di famiglie in cui tipo gli animali che non erano fatti uscire li hanno minacciati, ammazzati lì davanti a tutti, no? Hanno lasciato per strada un sacco di famiglie e comunque loro come risposta cercano sempre di allungare sempre più i processi, sempre fare più casse di resistenza per pagare le multe, insomma, cioè, anche se la repressione poliziale c'è, comunque la voglia, c'è un sacco di avvocati anche dentro l'assemblea del Movimento per la Casa che aiutano anche tanto a tirare fuori i compagni dai carceri. Va bene. Senti, vuoi fare qualche altra domanda ad Andres? No, allora lo salutiamo, Andres. Ciao Andres, gracias. Hola. Gracias. Ciao Andres. Senti, Lucia, io ti avevo posto quella questione che mi rendo conto richiederebbe, diciamo, una lunga dissertazione. Poi noi vorremmo lasciare magari un'ultima mezz'ora, no Ettore, pure per fare un po' il punto su alcune questioni italiane. Quindi ti lascio la parola e vai, diciamo, a stringere. Cioè, io ti avevo posto una domanda che era un po', insomma, io dicevo molto, lo dico con molta onestà intellettuale, una domanda difficile alla quale... Ma perché faccio sta domanda? Perché mi rendo conto dello stato di cose che ci sono nei vari paesi. Sì. Accennavo l'Italia, la Spagna, la Grecia, eccetera, dove anche laddove ci sono movimenti sostanziali, dove ci sono, diciamo, forti aggregazioni nel territorio, poi alla fine si scopre una cosa, che comunque i padroni del vapore restano sempre gli stessi. Qui in Italia, nonostante la corruzione, nonostante questa gente che ha tenuto gli affari di sto paese per lungo tempo, non solo se ricicla, non solo la scampa spesso, ma se ripropone pure per cambiare, dicono loro, l'Italia, cioè coloro che l'hanno devastata, io credo che questo si propongono per cambiarla, cosa che questa qui è una contraddizione proprio in termini, oltre che un oltraggio politico. Io credo che un po' la stessa cosa avvenga in gran parte d'Europa, che alla fine poi sti padroni del vapore continuano a essere questi. Ecco perché ponevo sta domanda, cioè qui certamente che bisogna partire, Lucia, dalla una riaggregazione in termini territoriali, nazionali, però certamente un respiro internazionalista a ste lotte va dato. Sì, noi sappiamo delle contraddizioni che ci sono in Spagna per una serie di motivi, ecco, intorno a sta questione intratteni un attimo pure i nostri ascoltatori, che mi sembra cosa comunque proficua per capire perché alcune cose stentano. Sì, no, infatti io con quello sono assolutamente d'accordo con te, che è una contraddizione molto forte e difficile da risolvere, no? Perché si sta partendo sempre più dal territorio, le lotte di territorio sono quelle che adesso hanno più l'avanguardia, diciamo, dei percorsi, però nonostante ciò non toglie che bisogna comunque internazionalizzare le lotte, cioè senza una mobilitazione internazionale, cioè, secondo me non andiamo da nessuna parte, e quello alimenta sempre di più comunque la contraddizione in Spagna dei movimenti sociali, perché è molto forte la lotta per l'indipendenza di Catalogna e, come sappiamo tutti, molto forte anche l'indipendenza dei Paesi Baschi, che comunque sono voi non vuoi, loro stanno cercando, cioè il loro scopo è creare un altro stato dentro un altro stato, cioè è una cosa che a me non mi entra in testa, cioè al di là come possono essere d'accordo o non d'accordo con l'autodeterminazione del popolo, le cose, sì, accordissimo, però se tu invece di fare un percorso di lotta veramente antagonista ti ricrei un'altra istituzione e punti a fare un'altra istituzione dentro un altro stato, tirare su un altro nuovo muro per fare un nuovo stato dentro un nuovo stato, cioè allora così mi stai frenando, cioè a mio avviso mi stai frenando, cioè io questo discuto un sacco anche con i compagni catalani, ci avevano sempre poi tra madrilegni, barcellonesi, proprio peggio del calcio, però no, cioè per dire, no, questa contraddizione c'è, esiste, è... per quanto può essere comunque sì una risposta, una volontà popolare, un'autodenominazione, un'autodeterminazione del popolo, fondamentalmente quello che il potere catalano sta facendo non è altro che tirarsi soldi più a casa, cioè il suo scopo del governo parlamentare, del Parlamento catalano, è rimanere con tutti i soldi che hanno loro, senza, cioè, fare un indipendentismo economico puro, economico. Beh, quello sarà un problema. La Spagna c'ha queste contraddizioni perché non ha mai avuto un'integrazione, diciamo, nazionale. Le autonomie sono state sempre marcate dai baschi, i catalani, l'Andalusia e via dicendo, hanno anche forme di cultura quasi diverse. A voi, giranno per la Spagna. Però è quello che per è vacanza, l'istrumentalizzazione io trovato, del potere che fa di quelle lotte. Mi trovavo come se cambiavo stato passando tra una cosa e un'altra. Esiste questo problema, anche questo è un problema che apre poi le contraddizioni. Il problema è che ormai è talmente globale, un governo senza volto che ci governa non solo l'Europa ma governa il mondo, no? Perché sono i poteri forti, tirasse poi la nicchietta del nazionalismo regionale, non lo so fino a che punto può portare avanti. No, io sono per l'indipendenza basca, sono per l'indipendenza catalana, però questa cosa una volta ottenuto tu riesci che questo grosso potere senza volto come lo contrastiamo se non facciamo quello, l'internazionalismo dico, proletario e di classe. Esatto, io l'ultimo dei punti che volevo toccare, a parte il movimento della casa, il movimento dei medici di Maria Bianca, è un conflitto di cui si è parlato poco qua in Italia, mi sa che su Info c'era un articolo poco tempo fa. È un conflitto nato in una piccola città di 200.000 abitanti della Castiglia León, la Castiglia profonda, la Castiglia del nord, a 200 km del nord di Madrid, una cittadina che si chiama Burgos, di una tradizione franchista molto forte, votanti di destra tradizionali. È praticamente un conflitto che ha fatto scoppiare tutto il territorio nazionale, perché che è successo? È c'è un sindaco che si chiama La Calle che ha lanciato questa proposta di riqualificazione del terreno di una periferia della città per spostare la ferrovia che collegava la città con la periferia e farla fare tutto un giro intorno e spostare la città di posto, e nel posto dove c'erano le ferrovie fare dei parcheggi per le macchine. Cioè era tutta una cementata incredibile, fare non so quante migliaia di posti di per macchine, cubi, di metri cubi per questo. Esatto. Insomma, c'è il sindaco lancia la proposta a concorso, il concorso lo vince Mendes Pozo. Mendes Pozo è un imprenditore edile che è anche proprietario del giornale della provincia di Burgos, c'ha anche diverse ditte edili di costruzioni, è stato in carcere per corruzione, è indagato dalla Commissione Europea. C'ha i requisiti giusti. Esatto, quello. Che è successo? Subito l'associazione di vicini si dichiara in disaccordo al progetto e scendono in piazza. Già il primo giorno si crea un'assemblea, già nata dal 15M, perché anche a Burgos c'era un'assemblea cittadina da 3 anni fa, e iniziano le prime manifestazioni. Il primo giorno ci sono migliaia di persone, i vicini in piazza, e già con l'idea chiarissima, dicevano già: noi sappiamo chi siete i responsabili di questo disastro che volete fare, sappiamo che gli imprenditori edili comandate in questa città, che avete pure dei giornali per difendere i vostri interessi, ormai non vi crediamo più perché vi conosciamo, cioè sappiamo come funziona qua la dinamica, no? Poi lì una città piccola, si conoscono tutti, cioè a volte anche gli sbirri si conoscono tutti, no? Quindi scoppiano 2 giorni di volantinaggi, assemblee, manifestazioni, 2 manifestazioni al giorno addirittura fanno. Il terzo giorno ci sono 5.000 persone in piazza, cioè in una città di 200.000 persone, un'assemblea di 5.000 persone in 3 giorni, cioè favoloso, no? E si decide comunque che seguiranno per una via pacifica finché possono, facendo comunque resistenza passiva dove dovevano iniziare i lavori. E nelle prime manifestazioni si parla appunto di problemi con i parcheggi, del rumore, della contaminazione, dell'isolamento del quartiere rispetto alla città, chiedono il trasporto gratuito, chiedono abbattere i muri che separano la periferia dalla città, perché poi sono divise da una zona militare che ormai non si usa più, abbandonata, eccetera eccetera. E così passano 2 settimane, si fa un'assemblea ogni giorno alle 7 e si fanno dei picchetti nei cantieri dalle 6 del mattino alle 8 di sera in gruppetti di minimo 100 persone. E sì, subito ci sono i primi arresti, i primi detenuti, si fanno le casse di resistenza e dopo 3 settimane ci sono 6 persone in carcere con multe da 3.000 euro. Però non, comunque il movimento risponde subito, in 5 giorni si sono tirati su 30.000 euro con l'iniziativa in piazza, ognuno ha messo quello che vuole e comunque vanno verso il percorso, va avanti, no? Verso il fermare i lavori, lì il percorso era chiaro, fermare i lavori, per adesso rimaniamo con quell'obiettivo, una specie di non TAV, esatto, cittadino, però cittadino. Sì, sì. Comunque gli scontri sono sempre più forti, arrivano gli sbirri a tutto il paese, blindano la città, si collocano in 2 cerchi, uno che identifica al di fuori e l'altro che menano dentro, no, diciamo. Comunque c'è da dire che anche ci sono state 2 denunce di aggressione da parte di 2 ragazze, tra tutti gli arrestati nel primo mese sono state 2 ragazze che l'hanno messo in isolamento perché non c'erano le celle in più per più gente, c'erano non so quante centinaia di persone in questura, non c'era lo spazio, le 2 donne le hanno messe in isolamento e loro dopo quando sono uscite hanno fatto denuncia di aggressione. E comunque la stampa di sto imprenditore edile criminalista dice che sono scesi dal Paesi Baschi per fare macelli, che sono i radicali, i terroristi che vengono qua a rompere tutto, però comunque la gente non ci crede più a ste bugie, lo sa, no? E subito le prime città ad appoggiare sono Madrid e Barcellona con delle manifestazioni non autorizzate, ci sono anche degli scontri, però si mantiene una situazione di tranquillità in piazza, si appoggia con l'EMA e Spagna intera è Gamonalera. Gamonalera perché il quartiere si chiamava Gamonal, no? E lì subito si vede che tutto il paese si identifica con questo conflitto, no? Dice lì c'è un sindaco, un imprenditore, un giornale e degli sbirri, cioè è chiarissimo, quindi tutta Barcellona, Saragossa, in Valencia tutti si dichiarano in appoggio e da lì dopo 2 mesi di mobilizzazione il governo centrale del partito chiama il sindaco, che comunque è sempre del PP, dello stesso partito, e gli dice basta, fa basta, perché qua ci alza tutto il paese, va tutto a puttana e si alza tutto, e adesso sta a vedere che per una riforma per dei parcheggi e una ferrovia di una cittadina di provincia si alza tutto, quindi fermalo subito. E il sindaco dopo 2 mesi di mobilizzazione dichiara il fermo dei lavori, dice che non si farà più, all'inizio dice per la sicurezza dei lavoratori, di quelli che dovevano a fare i lavori, no? Adesso io chiamerei a una compagna che è stata lì dall'inizio, Isa, l'ultimo, e per sentire un po' come sono stati lì quei giorni e come sono riusciti a fermare. Comunque facevano un'assemblea tutti i mercoledì e un corteo tutti i venerdì. Comunque c'è da dire anche che Burgos è una città molto fredda, questo si svolge a gennaio, febbraio, parecchi giorni va sotto lo zero, però loro quello non li frena, vanno in un'assemblea tutti i mercoledì, un corteo tutti i venerdì e scendono tutti, scendono a appoggiare i sindacati, i collettivi, famiglie, le persone, le associazioni, tutti i vicini, anche tutta la città, cioè non solamente quella parte del quartiere, no? E si dichiarano subito contro la criminalizzazione anche del conflitto. Sono 50 arresti durante le prime settimane, decine di detenuti anche arbitrariamente. Si dice anche i media egemonici parlano dei violenti, connessione a Berzale, cioè pro etarra dei Paesi Baschi, cosa che non è assolutamente vera, l'arrestati non ce n'era uno di fuori di Burgos. E si dichiarano subito contro l'uso delle telecamere della polizia, contro la repressione, contro la speculazione, contro la mafia del mattone, che comunque anche da noi l'economia si sostiene con tutto il settore edile della costruzione, no? E tutte le domeniche in piazza San Bruno, si vedono tutti insieme, fanno anche le iniziative culturali giochi di piazza. Ma aspetta Lucia che c'è in onda. Pronto? Isa. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿me oís? Buenos días. Pues mira, estamos aquí hablando un poco del conflicto de Gamonal. Cuéntanos un poco cómo fueron las primeras semanas. Bueno, pues las dos primeras semanas fueron semanas intensas en todos los sentidos. La primera semana, por ejemplo, todo comenzó en un jueves, que ya venían habiendo manifestaciones, y cuando ya se anuncia y se dice que van a aparecer las máquinas para hacer la obra, ya habían aparecido antes, ya habían agujereado la calle y cortado la circulación, pero la gente aún así seguía haciendo manifestaciones. Y entonces, cuando ya se ve que sí que van a venir a continuar con las obras, a empezar a hacer lo que es todo el levantamiento de la calzada, pues se empieza a repartir panfletos, las manifestaciones empiezan a ser diarias. Espera un momentito, que traduzco, ¿vale? Sì, la compagna diceva, raccontava un po' come sono state le prime settimane, no? Di lì tutti in piazza. Dal momento in cui si dice che iniziano i lavori, subito si iniziano a fare resistenza anche un pochino più attiva, e nessuno si tira indietro. Cioè lì è chiaro da tutti che o si ferma col corpo o c'è un rapporto di forza, non, chiamiamolo violenza perché porta anche delle ambiguità, però c'è un rapporto di forza fisica, no? Le forze dell'ordine, nel momento in cui appaiono le macchine, c'è sempre più gente che l'appoggia, no? Sì, mi decía, sigue un poco, Isa. Bueno, es que igual te lo resumo más que la otra vez, porque si no... Sí, sí, un poquito más. Sí, vale, pues empieza a haber como resistencia, se piensa en hacer resistencia constante para que no entren las máquinas. Y empiezan entonces las manifestaciones por la noche, que después de que haya disturbios y cada noche empieza a haber... O sea, primero una manifestación por la tarde y luego por la noche, al volver al barrio, después de pasear por la ciudad... es cuando ocurren los disturbios, y después de los disturbios la gente se vuelve a reunir, decide hacer asamblea siempre a la mañana siguiente y por la tarde. Entonces nos encontramos en que todos los días hay asamblea por la mañana, por la tarde y luego manifestación, y aparte una tabla de turnos de resistencia para estar frente a la zanja y que las máquinas no puedan entrar a hacer la obra. Sì, ci raccontava appunto più nello specifico come funzionava. Facevano una manifestazione la mattina, un'altra manifestazione la sera tardi, con sempre degli scontri la notte, e poi comunque un'assemblea la mattina, un'assemblea al pomeriggio e poi una manifestazione notturna, e i picchetti costanti dentro nel posto dei lavori. La mattina dopo si discuteva degli arresti, degli scontri della sera prima, però questo comunque per due settimane tutti i giorni. Senti Lucia, ma adesso tu pure hai fatto una cronaca abbastanza dettagliata dello svolgimento delle varie settimane, dei vari giorni, ma noi vorremmo sapere una cosa: allo stato attuale, oggi 12, oggi che giorno è? 11, com'è la situazione e qual è la prospettiva? Ahora Isa, ¿cómo es? Ahora mismo cómo están las cosas, cómo está después de que se ha conseguido parar las obras, cómo es la, qué perspectiva hay? Bueno, ahora mismo la asamblea solo se reúne los miércoles y ha descendido muchísimo. O sea, el nivel ha pasado de ser asambleas de 500 personas, en el mes siguiente siguieron siendo de 100, 200, y ahora mismo las asambleas se han quedado en grupos de 30, 50 personas. ¿Y hay grupo y hay personas con arresto domiciliario? Claro, sí, de la situación legal no hay nadie con arresto domiciliario. Están en libertad con cargos las 52 personas que tienen que ir a firmar cada 15 días, pero a la espera de que salga el juicio. Y aparte han llegado unas 40 multas y otras 3 órdenes de identificación por identificaciones visuales que el juez ha mandado a declarar a la gente 3 meses después. Dice que adesso è scesa parecchio perché sono riusciti a fermare i lavori, però comunque c'è un'assemblea tutti i mercoledì. E più che altro per gestire la questione della repressione, perché ci sono 72 persone, non so come si dice in italiano, quando devi andare a firmare ogni due settimane. Vabbè, che c'hanno delle misure, diciamo, in stato. C'hanno la firma in questura. La firma in questura e poi 40 multe da 3.000 euro. Se lì è la questione delle. Roberta, la questione delle multe gioca molto, che se vuoi introdurre. Se vuoi introdurre anche qui. Pure in Italia. In Italia, questa qui. Anche in un TAV sono stati penalizzati, condannati con multe, che però a frontarle 200.000 euro. Sono pesanti a raccoglierli, non so, i 6.000, ecco. Senti, sì, sì, sì. Lucia, senti, per il tempo a noi un po' ci stringe, vorremmo, visto che abbiamo fatto uno spaccato sulla data delle elezioni europee, uno spaccato direi anche abbastanza esaustivo nei limiti di una trasmissione ovviamente radiofonica, io vorrei ringraziare la compagna che è all'ascolto e vorremmo dedicare, intanto auguriamo buona fortuna, buona sorte per le loro lotte, per le loro battaglie, siamo molto vicini proprio in quell'afflato di internazionalismo che anche se poco praticato ancora comunque l'abbiamo dentro il cuore, quindi salutiamo la compagna e vorremmo dedicare anche visto che c'è anche uno spaccato che riguarda l'Italia a proposito delle prossime elezioni, ma soprattutto a proposito delle manifestazioni del 12 e del 17. Ringraziamo anche Lucia per il tuo contributo che devo dire è stato, diciamo, per noi importante, credo anche per chi ci ha ascoltato. Buona fortuna pure a te Lucia, qui, sia che ti trovi qui in Italia sia che tu torni in Spagna. Va bene, e mettiamo uno stacco musicale, l'isola che non c'è mi sembra adatta. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Allora rientriamo in trasmissione, dicevamo torniamo pure un po' alle cose di casa nostra che poi tra l'altro cioè, in ogni modo abbiamo visto che ogni mondo è paese sì, che poi non è che sono dissimili da molto Certo ci sono delle diversità da paese a paese delle quali dobbiamo tener conto Ettore, però ci sono molte similitudini. Siamo molte similitudini in Grecia, in Spagna, in Portogallo e anche in Francia. Però noi abbiamo Renzi che ci dà 80 euro. Sì, ma sulla storia di 80 euro adesso chiamo in causa Roberto che è stato silente ma attento fino ad adesso. Allora noi il 12 di questo mese, il 17, tra le altre cose, manifestiamo pure contro il Jobs Act e contro le misure che questo governo sta prendendo in temi di lavoro. Robè, se manifesta contro il Jobs Act, al di là delle 80 euro che sono l'assillo di Ettore, ma qual è la questione vera per la quale va contrastato sto Jobs Act? E poi un'altra cosa, Robè, pure così in appendice, sto conflitto del quale si è parlato, Landini, Camuffo, e la dico alla Ettore, Camuffo, Lagnini e Camuffo, è un conflitto vero all'interno della CGIL o come dice qualcuno è robetta e fumo negli occhi? Robè, tu sei il nostro esperto in materia economico-sindacale, tocca che adesso intervieni nell'ultima mezz'ora. Ma io farei una premessa: intanto Ettore ce l'ha con gli 80 euro perché a lui non gli arrivano, perché godendo di un reddito molto molto più alto, che lo colloca in una fascia come dire esente da questo tipo di problematiche. Ma adesso, a parte gli scherzi, no, ma il problema degli 80 euro, cioè la tragedia di questi 80 euro, su cui nessuno però pone l'attenzione, è un'altra, ossia che l'assenza di conflitto, quindi la presenza di un sindacato conflittuale, realmente conflittuale, ha portato a questo. Cioè è un vuoto che è stato coperto da un intervento legislativo del governo che è andato a colmare un vuoto che doveva essere riempito dai sindacati, che avrebbero dovuto mobilitare i lavoratori, le fasce meno abbienti, per arrivare a stipulare dei contratti in grado di portargli un po' di soldini in busta paga. In assenza di questa vicenda qua, ecco che interviene il governo, che poi lo faccia per motivi elettoralistici, perché comunque c'è un grave disagio per quanto riguarda la domanda aggregata, quindi i consumi, e quindi tutto quel mondo imprenditoriale piccolo, micro, che vive sui consumi interni, perché è ovvio che se si riducono i consumi interni, anche tutto l'indotto e chi produce, no? Cose, beni o servizi finalizzati ai consumi interni entra in una spirale di crisi. Quindi è evidente che alle politiche di rigida austerità imposte dalla Troica, dall'Europa, eccetera eccetera, bisogna cominciare a... ma questo ormai l'hanno capito tutti, anche gli economisti cosiddetti ortodossi, bisogna cominciare a contrapporre, anche se in maniera un po' soft, politiche di tipo espansivo. Quindi il problema degli 80 euro va inquadrata in questa, in questo contesto, e tre secondo me sono le questioni che vanno colte. Una, quella più bieca, può essere quella elettoralistica, no? Dice Renzi si inventa questa cosa perché alla vigilia delle elezioni europee così ottiene un consenso. Non dimentichiamoci che i beneficiari, la platea che beneficerà, sembra perlomeno, di questi 80 euro è quantificabile in 10 milioni di individui, quindi non una persona, non 100.000, non 10.000, 10 milioni a cui il governo assicura questi 80 euro in busta paga netti come misura strutturale. Queste sono le premesse e le intenzioni, poi dopo le elezioni vedremo se verranno confermate o meno. Allora, abbiamo detto, prima osservazione, diciamo, lo fa per un motivo elettoralistico, no? Facile consenso prima delle elezioni. Due, c'è oggettivamente un calo dei consumi interni, con quello che abbiamo detto, che cosa provoca questa storia qua, e quindi è anche un modo per immettere sul mercato dei consumi 10 miliardi di euro. Non è granché, ma non è neanche nulla, 10 miliardi di euro sono una cifra consistente. Terza questione è l'assenza, ripeto, l'assenza di conflittualità, perché quando mai deve essere il governo a dare i soldi ai lavoratori? È vero che qui si sta parlando di sgravi fiscali, no? A fronte di una tassazione ormai molto alta, però è anche vero che io da quando mi ricordo i benefici in termini di stipendiali sono sempre venuti per le lotte che i lavoratori auto-organizzati o organizzati con i sindacati sono riusciti a strappare alla controparte. Questi soldi vengono dai soldi di tutti, non dalle tasche del padronato, e questo è un altro elemento che andrebbe un po' più sottolineato. Perché una cosa, adesso su 10 milioni di potenziali beneficiari, diciamo che circa 1,5 milioni saranno pubblici dipendenti, ma tutti gli altri sono lavoratori privati, a cui dovevano far fronte le tasche padronali e non quelle di tutti i cittadini che pagano le tasse in Italia. Questo per quanto riguarda gli 80 euro. Questo per fare un po' di chiarezza. Per fare un po' di chiarezza, il Job Act Jobs Act. Act. O Act, come dicono quelli Act. Bravi. Allora, ricordiamoci una cosa: in Italia dal pacchetto Treu in poi sono state immesse innumerevoli forme di lavoro flessibile, precario e ipersfruttato, e io non ho mai visto grandi levate di scudi, anzi, siccome che quelle misure furono introdotte da governi di centrosinistra, poi via via sono sempre state in qualche misura anche a livello sindacale giustificate perché erano misure tese a rompere la rigidità del mercato del lavoro, e invece bisognava avere questo lavoro flessibile che sicuramente avrebbe favorito l'occupazione, eccetera eccetera. Ovviamente sappiamo che le cose non stanno così, non sono andate così, nel senso non hanno portato nessun beneficio in termini occupazionali, se non a una intensificazione dello sfruttamento, a una deprofessionalizzazione e così via. Però non mi sembra che attorno a queste problematiche si sia mai scatenata, no? Quello che si è scatenato oggi sul Jobs Act. Ma perché? Allora, il lavoro a tempo determinato, intanto diciamo che è la forma, la tipologia di lavoro più tutelata che c'è, nel senso che chi sta a tempo determinato gode di tutele al 90% identiche a quello di chi sta a tempo indeterminato. Quindi non è tanto la tipologia del rapporto di lavoro che va messa sotto accusa. Le questioni sono altre. Uno, la acasualità. Una cosa è assumere personale a tempo determinato a fronte di carenze d'organico legate, che so io, a lunghe malattie, maternità o a picchi stagionali di attività. Se uno lavora ad esempio nel circuito turistico alberghiero, si sa che 3-4 mesi l'anno c'è un picco di attività che poi però va giù, e quindi non si può mantenere per tutto l'anno uno stesso numero di occupati, e quindi in genere in agricoltura, sul turismo, quella era plausibile il ricorso anche al tempo determinato, cioè contratti di durata di alcuni. Ma Robella, a casualità significa un'altra cosa. Significa che questo vale sia in entrata che in uscita, e mi spiego. Quindi viene meno la motivazione del perché si assume a tempo determinato. È quello che stavo dicendo. Non deve essere più giustificato appunto da picchi di attività o sostituzione di malattie, eccetera eccetera. Ma io assumo a tempo determinato perché mi fa comodo così, e poi valuterò se prolungare questo contratto o meno. Ma la stessa cosa vale per il licenziamento, nel senso che si licenzia senza nessuna necessità di motivare il licenziamento. Si può licenziare anche all'interno del periodo del contratto di lavoro stipulato. Quindi la mancanza di casualità è un elemento determinante. Te volevo fare una battuta, è arrivata la telefonata che non è voluta andare in onda. Sì. Portando l'esempio classico, il suo compagno, di chi, quello che ha telefonato, lavora con contratto di solidarietà. Questo contratto di solidarietà gli costa 83 euro. Adesso che fanno? Riprende gli 80 euro? Penso di sì. Cioè, da una parte levi, il governo, e da una parte fa finta di dare. Ma il contratto di solidarietà non è che ha fatto, però scusate, voglio dire, qui le cose vanno dette nella maniera giusta, perché se bisogna attaccare Renzi, abbiamo 200 miliardi di motivi per attaccare Renzi. Però accusare Renzi del contratto di solidarietà che avranno stipulato, non lo so, in un'azienda, dove diavolo è, boh, Renzi che c'entra? No, lì semmai la questione è sindacale, e qui bisogna che tutti si prendano le loro responsabilità. Non è che qualsiasi cosa si muove, no, è colpa di Renzi. Allora, il sindacato, io voglio sapere cosa ha fatto fino a oggi. Allora, contro la precarizzazione del lavoro non ha fatto assolutamente nulla, anzi l'ha sempre in qualche modo giustificata. Prima questione. Seconda questione, la più grande riforma pensionistica d'Europa. Cosa ha fatto il sindacato? 4 ore di sciopero. Vergogna! Vergogna! Ma lei, scusa Roberto, così per interloquire un attimo, dall'altro quando ti chiedevo dei Landini, ecco, quando Landini tuona dal palco di Rimini al congresso della CGIL e dice: se Renzi fa questo è colpa di quello che non abbiamo fatto noi nel corso delle nostre deficienze, è no? Sacrosanto, Servino, è sacrosanto. Ho capito, ma cosa fanno adesso? Allora, Fammi una cosa a volta, però che se no, sai che ti dico, diciamo due parole, no? Il capitalismo è la colpa di tutto, chiudiamo la trasmissione, amen. Cioè, o ci famo uno sforzo anche per cercare di capire e calarci nella realtà di quello che sta accadendo, o se no, diciamo appunto che l'origine del male assoluto è il capitalismo. Detto ciò, non vedo che altro si possa aggiungere. Il nostro programma possiamo aggiungere che il comunismo, e abbiamo chiuso la trasmissione. Allora, torniamo alla questione Camusso. Intanto c'è un dato che dimostra come la CGIL è irriformabile. Dopo tutto questo casino che è avvenuto, no? Gli scontri con Landini, Afium, Cremaschi trascinato sulle scale come un sacco di patate da un energumeno, la sentenza della Corte Costituzionale su articolo 19, che succede? Fanno il congresso tra mille polemiche e la Camusso ottiene l'80% dei consensi. Dice sì, però è calata un po', prima stava al 90, vabbè, insomma, voglio dire, se andiamo avanti di questo passo, allora la CGIL è quello, la CGIL è la Camusso. Dopodiché, mettendo insieme Landini, Cremaschi, qualche remasuglio qua e là, magari forse un 20-25% riesce pure a portartelo in opposizione alla linea Camusso. Ma voglio dire, di fronte a un dato che dà l'80% alla Camusso, caro Landini, qui due cose puoi fare: o ti metti la coda fra le gambe o esci dalla CGIL. Secondo me si metterà la coda fra le gambe, perché continuerà a stare dentro la CGIL, a fare l'opposizione alla CGIL senza contare nulla, come non è contato praticamente nulla fino ad oggi. Tornando al nostro caro Jobs Act, stavamo dicendo del tempo determinato. È ovvio che, cioè, io le considero forme sciocche anche dal punto di vista economico, no? Perché non è il lavoro flessibile che crea il lavoro. Il lavoro si crea in altra maniera. Poi le tipologie di rapporto di lavoro che tu metti a disposizione del padronato possono, come dire, incrementare o meno determinate fasce assunzionali. Ma c'è anche un altro discorso, cioè questo del tempo determinato può valere chiaramente per una manodopera poco professionalizzata, no? Nel senso che quando due unità lavorative sono intercambiabili, perché non c'è bisogno di una particolare professionalità per svolgere un lavoro, tanto, no? Oggi assumo Serafino per 3 mesi, poi vedo che Serafino però mi sa che è politicizzato, sindacaliano, butto fuori, e Pio Ettore che mi sembra più docile, no? E così via. Ma questo lo puoi fare solo quando quel tipo di lavoro non prevede anche un'acquisizione di professionalità, no? Di quello che stai facendo, perché non è che uno viene assunto per fare un determinato lavoro in cui serve comunque qualche mese, no? Di ambientamento, quindi si comincia a acquisire una professionalità. Dopodiché, il momento in cui Serafino mi è diventato uno che ha capito quello che deve fare, me lo fa bene, allora io lo licenzio, Pio Ettore, e ricomincio da capo. È evidente che questa storia non è funzionale, non va bene, no? Ma non va bene manco al datore di lavoro. Quindi su questo bisognerebbe anche capire un po' meglio. Sicuramente va contrastata questa storia, ma ripeto, la questione principale rimane quella della causalità, del perché si assume a tempo determinato e del fatto di poter permettere al datore di lavoro di poter licenziare in qualsiasi momento la persona che è stata assunta. Ma comunque rimane fermo il fatto che il rapporto di lavoro a tempo determinato è estremamente più tutelato, almeno per il periodo che esso dura, no? Rispetto a quella somministrazione. quello a Coco Pro e tutte le diavolerie che si sono inventati per sfruttare la manodopera. Questo deve essere comunque chiaro. Vabbè, ma anche se io sentivo che anche sull'apprendistato non c'è più, diciamo, il vincolo che comunque finita apprendistato poi se passa lì, pure mi pare che ci sia stata mano libera quest'ultimo con quello che è passato, allora, con quello che è passato al Senato. Se non vado errato è stato rimesso la percentuale di assunzione, però pure lì vedi è un discorso strano, perché se io voglio solo sfruttare la manodopera, allora faccio finta, no? di ingaggiarti per uno stage per l'apprendistato, e dopodiché è finita la greppia, te manno via. Ma se per caso io ho bisogno di formare dei lavoratori per il tipo di prestazione che mi serve, sto discorso che poi non scatta l'assunzione non è automatico, cioè voglio dire dipende se è farlocco dall'inizio tutta la questione oppure se ha una reale concretezza, perché se io ho bisogno di formare del personale, ovviamente una volta formato non lo caccio via, ripio un altro e devo ricominciare da capo. Se mio nonno c'aveva due ruote era una motocicletta, se ce n'aveva quattro era una Ferrari. Pure se uno capisce, pure se uno capisce, però no, allora, sarebbe un'altra cosa. Poi se non capisce, allora quello che non capisce c'è il libro leso e tu c'hai tutti i requisiti. Perché quando tu mi dici che il contratto a tempo determinato dà le stesse garanzie di un contratto a tempo indeterminato, perché non capisci, mi fai finire, non capisci, e ho capito io, allora fammi fa parte. Dai va avanti su. Quando uno sta con la cosa del rinnovo e glielo può rinnovare per bel 6 volte 7 volte, non fa altro che sottoporsi docilmente come un cagnolino bastonato sotto il padrone, perciò potrebbe godere di certi diritti, ma non le può rivendicare, perché sennò non ti faccio più il rinnovo. Stai dicendo due cose diverse. Questo è il contratto a tempo indeterminato. Stai dicendo due cose diverse. Ho capito, ma non può mischiare i meloni. Questa è la realtà, Roberto. Allora una avanti, cosa, scusa, no, voglio chiarire questo aspetto, perché sennò qui fa ma la parte di non so di che. Allora, se tu mi dici stiamo parlando della temporalità, è un discorso. Io stavo parlando della tipologia del rapporto di lavoro. Teoricamente, allora, siccome che perciò mi nonno non c'è, è teoricamente c'è. Sono due questioni diverse. Allora, se noi parliamo della temporalità, della mancanza di causalità e quindi tutto ciò che comporta questo tipo di situazione, è un discorso e siamo tutti d'accordo, è ovvio, scontato. Se poi parliamo della differenza che ci può essere tra un lavoro a somministrazione, a chiamata o a co-co-co e un lavoro a tempo determinato, ti dico che è un'altra cosa. Stiamo parlando del giornale. Jobs Act. Ecco. E questa legge che è passata in Parlamento con tutte le rimostranze che ci sono state, i sindacalisti di base, Cobas, USB, hanno volantinato pure dentro il Parlamento, se sono fatti fermare dalla polizia, voglio dire, non è che è passato liscio, qualche resistenza c'è stata. Stiamo parlando di questa legge che rende la precarietà permanente per tutta la vita, col sistema di rinnovabilità per 5-6 anni, per 36 mesi, che però una volta scaduto lo può fare e assume dopo un'altra volta e ricomincia da capo. Pertanto per tutta la vita questa situazione, che teoricamente c'è la differenza che dice Roberto tra un somministrato, un stagionale, a ore, c'è la differenza. Il contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, godrebbe teoricamente di tutti i diritti del contratto a tempo indeterminato, teoricamente, ma dato che stiamo qui e nella pratica ci abbiamo i padroni che, come alza la capoccia che dici ma aspetta la maternità, trova un pretesto e non ti rinnova più il contratto, ma aspetta il diritto che sono malato di stare a casa a riposo, scade il contratto, non te lo rinnova. e i diritti te li fai da affanculo. No, e non c'è niente. No, no, no, perché se ricorri, gli hanno levato pure le penalità, l'obbligo di riassunzione, ma pensi solo una multarella, capito? Una multarella. I contratti di formazione, i contratti d'apprendistato hanno levato quella quota destinata del 30% ad assunzione. No, all'assunzione. C'era una quota del tempo di lavoro che l'apprendista doveva fare una scuola per formarsi e il datore di lavoro la doveva pagare. Adesso non c'ha più questo obbligo, perché quel 30% la scuola gliela fa lavorando sul posto di lavoro, così ci guadagna. Non dà il contributo per la scuola, ma pensi te fa la scuola direttamente facendo da avvità. Ma bulloni, ovvia dicendo. Perciò questi sono il nuovo modello di lavoro. Ettore, scusami, con gli stage, no? Questo già c'era. Cioè basta intervistare. Capito, guarda, quello che c'era e quello che c'è diventa peggio. Ettore, allora, basta intervistare qualche migliaio di giovani stagisti e ti diranno che sono sempre stati messi in condizione di lavorare nel vero senso della parola, senza che però apparisse nessun tipo di rapporto di lavoro. Ma si sanno queste cose. Ma a me quello che sembra strano, che ci si meravigli oggi, no? Perché la cosa è emersa all'interno di quello che appunto è l'atto del lavoro, e quindi adesso tutto si mette tutto insieme, come se prima avessimo goduto. Adesso andiamo meglio, Roberto. No, io ti sto adesso dicendo... abbiamo più diritti. Io ti sto... devi essere chiaro, scusa, quando parli, se no. Se, ma scusate, no, ma pure tu devi essere chiaro, Roberto. Scusa, scusate una cosa, ma però è un dramma. Scusate, ma no, ma io Roberto, scusa un attimo, rosea. Ma qui è il dramma vero, è un altro. Voglio dire, qui si sta ragionando, si stanno facendo decreti che poi vengono volti in legge, che regolamenta nel lavoro, ma il vero dramma è che non c'è il lavoro. Questa è la questione. Questa è la questione. Cioè qui se parte come se uno dovesse costruire una casa, se parte dal tetto invece che dai fondamenta. Cioè se regolamenta un lavoro che non c'è, l'isola che non c'è, Ettore. Questa è la questione drammatica e paradossale di sto paese. E ci si scanna pure, e si fa scannare la gente sopra. Dice io voglio un contratto così, no, io spero che di averlo così, spero di non stare, spero di acchiappare qualcosa. Ma è una speranza. Perché la vera questione è che mancano le fondamenta intorno a sta discussione del lavoro. Allora, Serafì, siccome che hai colto il punto, perché sennò qui veramente ti fanno parlare, no? Di cose che poi non c'entrano niente. Il lavoro, l'abbiamo detto mille volte, non si crea col tempo determinato, col tempo indeterminato, o c'è o non c'è il lavoro. Se non c'è, non c'è. Se c'è il lavoro, allora lì si va a discutere su come mi devi assumere. Ma diciamo anche un'altra cosa, che è una legge economica. Siccome che da quando è nata, anzi ancora prima che nascesse l'unione monetaria, è stata fondata sulla lotta all'inflazione. Per abbattere l'inflazione, una delle armi che ha sempre usato il sistema economico capitalistico è quello della disoccupazione. Cioè, basta chiedere a qualsiasi economista in buona fede e ti dice: sì, in un momento di grande disoccupazione viene abbattuta l'inflazione, ma perché è normale? Si riducono i consumi. Riducendo i consumi si abbatte l'inflazione, quindi è tutta una questione studiata anche a tavolino e prodotta. Cioè non è solo una conseguenza della crisi economica il fatto che non ci sia lavoro, che ci sia grande disoccupazione, abbiamo sentito, no? In Spagna, ma lo sapevamo, insomma, in Italia o in Grecia, eccetera. Fa parte di una strategia di politiche economiche che ben conosce la Troica, che quindi crea le premesse perché ci sia una disoccupazione di massa, un esercito di riserva, come lo chiamava Marx, no? Perché è funzionale agli obiettivi che si sono prefissi, perché uno degli obiettivi fondamentali della cosiddetta politica dell'austerità è l'abbattimento dell'inflazione. Peccato che mo, no? Si rischia la deflazione. E quindi, rischiando la deflazione, si comincia a intravedere qualche timido tentativo di rilancio in senso espansivo dell'economia. Questi 80 euro, l'ho detto all'inizio, sono il risultato di quei due o tre motivi che abbiamo detto. Qui non si tratta di sapere se il Renzi è buono, bravo, cattivo, se è qui e se è là. Tutto quello che viene fatto, no? Risponde sempre a una logica, e una logica non è mai solo di tipo, che ne so, elettoralistica, anche elettoralistica, ma non solo elettoralistica. Sulla bocca di tutti, non solo degli euroscettici, anche da parte dei cosiddetti filoeuropeisti, no? Dal PD, eccetera. Comunque si comincia a parlare di cambiare verso, dice Renzi, ossia di modificare, di contrastare questa linea troppo rigida dell'austerità, e Draghi sta pensando di immettere 1.000 miliardi di liquidità in Europa e Sperando sempre che questi 1.000 miliardi non passino per le banche, però passeranno sempre per banche, certo. Passeranno sempre, certo, perché questi sono i regolamenti da BCE. No, perché il perno dell'economia capitalistica passa tramite e la BCE è regolamentata in questo modo, no, Robè? Sì, appunto, però qui ancora, voglio dire, bisognerebbe chiarire meglio questo aspetto. Marx già aveva parlato, ma siccome Marx non lo legge più nessuno, lasciamo perdere. Che qui, come nome di Marx, pare che stiamo a nominare non si sa che cosa. Allora, i soldi, perché sono state privatizzate le banche? No? La stessa Banca d'Italia è una SPA, chiaramente è sotto controllo pubblico, ma è una SPA, no? Come la BCE, eccetera, eccetera. Perché c'è una questione di valorizzazione del, cioè il discorso sarebbe lunghetto, però sta di fatto che i soldi non possono andare direttamente al popolo né direttamente a uno Stato che poi li dà al popolo, devono sempre passare tramite le banche. Quindi questi soldi servono a mantenere il sistema, e l'euro si svaluta rispetto al dollaro, no? Anche per cercare di in qualche modo di contrastare i vantaggi che ha il dollaro attualmente sull'esportazione, poi anche nell'imminenza di questo famoso trattato transatlantico, chiaramente un euro molto forte c'è un eccessivo sbilanciamento. Allora, detto ciò, visto che abbiamo già sforato, non so se dobbiamo fare una sintesi, facciamo una sintesi. Sì, ma poi sai, Robè, questa è una discussione che non è che resta aperta costantemente. Io, ecco, l'unica cosa è questa, che noi facciamo bene a cercare di capire, di entrare pure dentro i meandri di certi meccanismi che poi alla fine finiscono per incidere sulla carne viva di chi lavora, di chi è disoccupato. Queste non sono cose, queste di cui parliamo, in misure del governo, in misure dell'Europa, estranee solo perché ci fanno schifo, e ci fanno schifo, ma sono questioni che, siccome calano poi sulla pelle di chi lavora, chi deve vivere giorno per giorno, è evidente, sono d'accordo con sia Ettore che con Roberto, vanno esaminate magari pure in maniera dialettica, come facciamo spesso dai microfoni de vengo anch'io, in maniera anche evidenziando pure delle diversità, dei contrasti al nostro interno, però avendo la consapevolezza, e l'abbiamo tutti, che poi alla fine ci sono pure intorno alle questioni del lavoro, e a ragione da fondo sono quelle che in questo paese non cresce il numero dei posti, non c'è una ripresa, non c'è un piano industriale, non c'è un piano agricolo alimentare, non c'è un piano per la salvaguardia del territorio, da ambiente, per la, anche un piano fondato sulla ricchezza che provenga da tutto il patrimonio, diciamo, ambientale, paesaggistico, culturale, non c'è piano di niente. Stiamo soltanto, diciamo, al vedere come si mette nei pezzi nel buco, in una situazione dove la corruzione, lo dicevamo all'inizio, impera, continua ad imperare, e questo non fa ben sperare. Perché questo qui, quando si tratta, come dicevano Ettore e Roberto, pure intorno alle questioni del lavoro, di una ripresa industriale, dei reperi fondi, qui se non si smantella il sistema di corruzione di sto paese, ma qui quando ha voglia fa i tagli, ha voglia fa le sforbiciatine alla queste fatte, diciamo, negli ultimi tempi. Qui si tratterebbe di rincamerà intere casse. Quando si continua con la vergogna delle grandi opere, che come diceva ieri, io sentivo in televisione il nuovo, diciamo, direttore dell'Agenzia contro la corruzione, il magistrato, quello che era, che ha combattuto contro i casalesi, la camorra a Napoli, adesso mi sfugge il nome, questo qui che diceva? Diceva una questione semplice, che qui quando c'è una situazione di questo tipo, se tu non metti mano a ste cose, ragazzi, ma qui i soldi questi continuano ad andare per rivoli molto, molto diversi. Noi andiamo alla conclusione, sono le 13:12. Cioè, il fatto è che è in atto quello che diceva Marx. C'è la lotta di classe, ma Marx non ha detto che la lotta di classe lo fanno i proletari contro i padroni. Che c'è una lotta di classe, i padroni stanno a fare una lotta di classe, stanno a vincere. Perché il proletario è disunito, non ha spezzato le catene. A sintesi di tutto il ragionamento, io potrei dire tante cose, però tanto così la facciamo, la chiudiamo pure a ridere, no? Perché tanto una riseretta le seppellirà. Vi racconto una strofa, una storiella in dialetto, perché poi è la sintesi del ragionamento che si è fatto su sto lavoro o non lavoro. La storiella è questa: una volta c'era un re, di ritupi di merda a te, sto re aveva una figlia, di ritupi di merda figlia, sta figlia aveva un arancio, di ritupi di merda mangi. Poche parole, no, non c'è sta gente, ha fatto a beneficio degli ascoltatori calabresi questo. Certo, che però il ragionamento che è stato è questo, no? Quella era meglio, cioè se te taglio una gamba, se te la taglio dal ginocchio, se te la taglio dal coso. Il discorso è che questi stanno deragamentando tutto il mondo, e ce l'ha spiegato Monti, il famoso Monti, ha detto che le crisi si fanno per ristrutturare il sistema. La crisi europea ci serve perché l'Europa sta facendo riforme per riorganizzarsi. E allora tutto quello che sta avvenendo è questo. Noi avevamo parlato delle esperienze della Spagna, mi sembra che lì ci sono contrasti più concreti di non accontentarsi del giorno latte o di altre cose. Qualcuno si muove per cercare di cambiare radicalmente il modello da situazione. Perciò noi chiudiamoci, vediamo, sentiamo domenica prossima.